Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Quattro mattino di Simone Spezia. Partiamo in anticipo oggi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, sono le 6, 12 minuti e 40 secondi, è martedì 22 settembre, è finita la par condicio, è finito il silenzio elettorale e siamo qua a parlare di regionali e referendum. Peter Bescape in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione anche Gloria Guerrera e Giorgio De Luca, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori, in una puntata che sarà, come potrete ben immaginare, ampiamente dedicata a quello che è successo ieri nelle urne e alle possibili conseguenze di questo voto. Molto si è parlato nei giorni scorsi sull'ipotesi del famoso 7-0 evocato da Matteo Salvini e delle conseguenze che avrebbe potuto avere sul governo, sul Partito Democratico, sui singoli partiti. Molto si è parlato del no, lo ricordate, eh? C'erano titoli di giornale con scritto «La rimonta del no al referendum». Chiuso poco fa il conteggio finale, siamo intorno al 70% per il sì. E le regionali finiscono 3-3, eh? Quindi cambiano un po' di cose rispetto alle prospettive degli ultimi giorni. Chi vince? Beh, la segreteria del PD attuale, quella di Nicola Zingaretti, tiene il governo, non sta benissimo Matteo Salvini, non che non stia bene la Lega, forse non sta bene, non sta troppo bene la leadership di Matteo Salvini, comunque questo è sotto tema di discussione ovviamente, sta bene Fratelli d'Italia, I dati sono positivi dappertutto, è l'unico partito che cresce dappertutto. Sta così e così Italia Viva di Matteo Renzi, che ottiene per esempio un buon risultato in Campania, ma un po' meno, beh, in Puglia, ragazzi, Scalfarotto ha preso mi pare un 2%, forse nemmeno un 2%. E poi, la grande questione. Adesso che si è votato per il referendum, per il taglio dei parlamentari, è partito il grande cinema. E ora le riforme. Non voglio sorriderci troppo, però quante volte l'abbiamo sentita questa storia. E ora le riforme. Adesso è il momento delle grandi riforme, del grande cambiamento. Le voglio vedere queste riforme. Tra l'altro, secondo il centrodestra, la vittoria del sì al referendum delegittima questo Parlamento, perché dicono non è più, non deve più restare in carica. Che ne pensate? 349-238-6666, soprattutto per i vostri WhatsApp audio, abbiamo qualche problema con quelli scritti questa mattina. Se volete scrivere invece gli SMS, sempre 349-238-6666. Vogliamo iniziare da qualche voce, va? E iniziamo da questa Puglia che sembrava in bilico. Anche gli exit poll, a conferma che bisogna sempre stare attenti a commentare troppo presto, anche gli exit poll ci dicevano che la partita tra Emiliano e Fitto era aperta. E invece 10 punti di vantaggio per Emiliano, si chiude così appunto questa partita pugliese. Sentiamolo proprio l'ex presidente e neopresidente, cioè presidente uscente e riconfermato con questo voto, Michele Emiliano. Via! Noi percepivamo una grande vittoria sulle dita, ma i sondaggi ci dicevano che stavamo testa a testa. Nessuno di noi ovviamente ha avuto il coraggio di credere alle sensazioni, ci siamo fidati dei sondaggisti, ma poi in realtà ci sono 7-8 punti di distacco, quindi un distacco enorme, che noi avevamo percepito strada per strada negli occhi delle persone, ma che evidentemente non veniva registrato dai meccanismi di previsione. Raffaele Fitto si lamenta un po' e dice: guardate che qua c'è stata una gestione elettorale della regione, ossia la regione stessa, cioè l'istituzione regione, è stata utilizzata come una macchina elettorale per Michele Emiliano. In Puglia poi c'è stato un secondo dato che io voglio citare senza voler fare polemica, ma che è un dato oggettivo, che è quello della gestione della regione, perché noi abbiamo assistito ad una gestione della regione fino ad oggi, a stamattina, con atti di tutti i tipi. Così in Puglia, che era la partita, una delle due partite insieme alla Toscana sulla quale il centro-sinistra si giocava molto. E poi c'è invece per il centro-destra. Però facciamo una cosa, restiamo prima in Toscana, perché sentiamola la voce di Gianni, il neo presidente della regione, che batte Susanna Ceccardi, la candidata della Lega, e la batte anche nel posto nel quale la Ceccardi è sindaca, Cascina, ma la batte con 10 punti di vantaggio. Sentiamolo, Gianni. Il sentimento di laboriosità, di passione, di capacità di vedere il futuro con cultura, con civiltà, come è stata la storia della nostra terra, è quello che poi ha portato le persone, e in barba a tutto quello che veniva detto o veniva espresso partendo da presunti sondaggi, in realtà è il risultato che vediamo. Ci consegna questa tornata elettorale due, mi viene da dire, due monarchi, un doge e un re di Napoli, per rimanere a figure storiche. Il doge Luca Zaia, con questa vittoria in Veneto, che molti mettono in relazione con il fatto che la leadership di Salvini potrebbe essere messa in crisi. Non a caso la lista di Zaia ha preso, se non vado errato, un 43-44%, la lista della Lega un 15%. Tutti si affrettano a dire: no, ma guardate, no, ma dentro la lista Zaia ci sono uomini della Lega, lo fa per esempio Fontana. Significa che faremo tanti consiglieri leghisti, perché la lista Zaia è stata fatta da noi e da tutti i militanti della Lega, quindi insomma il nostro obiettivo era superare il 50% fra le due liste per avere consiglieri leghisti all'interno che facessero la maggioranza del consiglio regionale. Così Salvini. Il Veneto, se i dati verranno confermati, ha la maggioranza assoluta del consiglio regionale fra lista Lega e lista Zaia, intorno al 60%, con, ripeto, tutti i candidati sia della lista Lega che della lista Zaia, che sono militanti e amministratori della Lega con qualunque bandiera siano eletti. Quasi en passant, no? Con qualsiasi bandiera siano eletti. Zaia. Sì, la lista Zaia non è un soggetto politico, è la quinta volta che viene presentata, ma come accade per molti sindaci, per molti colleghi presidenti che portano anche una lista civica. È l'occasione per dare una risposta con un contenitore a quell'elettorato che non è tipicamente tuo. Penso che la lista Zaia abbia avuto questa riconoscenza, questa premialità di voti, proprio perché comunque è stata premiata l'amministrazione. E per carità, tu Zaia lo puoi torturare su questa storia della competizione con Salvini e ti risponderà sempre la stessa, anche quando lo avremo ospite glielo chiederemo per dovere giornalistico, però tanto ti risponde sempre questo. Ma ce n'è zero, guardi, ad ogni elezione viene fuori il confronto con la lista Zaia. Inutile confronto, perché questi sono voti, e tanti voti, dei veneti per i veneti. Però non ha detto voti della Lega, non ha detto voti della Lega. Faccio notare, un po' maliziosamente, scusate. Il re di Napoli, il re di Napoli, perché poi guarda con questo anche alle amministrative in arrivo. Allora, Zaia ha preso il 74%. De Luca si prende quasi il 70% in Campania, e fa un discorso non tanto per parlare della sua vittoria, ma per parlare del clima che si respira in questo paese. Poi abbiamo visto ritornare a galla e prevalere elementi di rissosità, di aggressività, di politica politicante, che sono l'unica cosa di cui l'Italia non ha bisogno. E ancora, in Italia c'è un dibattito tossico. È andata crescendo una società tossica. Un dibattito pubblico, un confronto politico segnato sempre di più da elementi di aggressività, di incarognimento, di calpestamento della dignità delle persone. Io credo che dovremmo deciderci a trovare nel nostro paese un modo di vivere anche la vita pubblica, di vivere anche il confronto politico in maniera civile. Noi la retorica di De Luca piace, diverte sempre, ma che lo dica proprio lui, che lo dica proprio lui, che non è mai delicato, però così è. Un ascoltatore giustamente dice: non abbiamo accennato, no, in questa disamina di come è andato questa tornata elettorale, dice, perché non parli dei 5 Stelle? Scrive al 349-238-6666, che dicono di essere ad un punto di partenza i cui deputati rappresentano un partito che non c'è più. Un partito che non c'è più è un po' forte come espressione. Di certo registrano la vittoria al referendum, forse scontata, e dall'altra parte dei risultati sul territorio che non sono proprio lusinghieri, nemmeno laddove tra l'altro si sono alleati con il Partito Democratico, ossia in Liguria, dove ha vinto, come ben sapete, Giovanni Toti. Facciamo un salto nel centrodestra, con Giorgia Meloni, che rivendica: siamo l'unico partito che cresce, Fratelli d'Italia. Ma se i primi dati che leggiamo non dovessero essere smentiti, potremmo dire con grande orgoglio che Fratelli d'Italia è l'unico partito che cresce su tutto il territorio nazionale, da nord a sud. Ancora il leghista Fontana. Effettivamente nel mezzogiorno bisogna crescere, e lì penso che tutto il centrodestra deve porsi delle domande. Probabilmente io ritengo anche un po' di rinnovamento della classe politica del centrodestra, perché andando ogni tanto in campagna so che magari lì si voleva un po' più di rinnovamento. Giovanni Toti, appunto, vincitore in Liguria. Ma no, non credo che cambi gli equilibri interni al centrodestra, sono elezioni regionali, risentono evidentemente dei risultati di ogni singola regione. E Matteo Salvini, che dice a proposito di Giorgia Meloni, glielo chiedono anche qua, un po' come Zaia, potete torturarlo, la risposta vi darà sarà sempre più o meno la stessa: non soffro la competizione interna. I cittadini dicono che la Lega, da nord a sud, è il primo partito di questo paese. Non soffro competizioni interne, nel senso che più cresce la squadra del centrodestra, meglio è per tutti. Non ho nemici nella vita. Lato centrosinistra sarà poi nostro ospite alle 8.45, Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, che parla di un ottimo risultato. Un bellissimo risultato in Campania, un bellissimo risultato in Toscana, dove vinciamo. Un bellissimo risultato in Val d'Aosta, dove bisognerà costruire una coalizione. Così come in Sardegna, dove il nostro candidato fa un grande risultato alle suppletive al Senato. Zingaretti del PD, Ma siamo vincitori, non sono vincitore. Ha vinto una squadra, ha vinto una comunità, ha vinto la passione che ci abbiamo messo tutti, dei candidati, delle candidate, dei militanti. A me ha fatto piacere che la chiamata raccolta della battaglia politica è stata una chiamata raccolta che ha avuto una risposta positiva. Non si vince mai da soli, si vince sempre insieme. Io odio l'io e amo il noi. Così Zingaretti a chi gli dice: beh, ha vinto segretario, perché si parlava di una sua possibile sostituzione. Una pausa, ci ritroviamo tra un attimo. Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Vi presenta. Insomma, come al solito, abbiamo vinto tutti, via. Come al solito hanno vinto tutti, ci dice un nostro ascoltatore. 349-238-6666, se volete mandarci un WhatsApp audio, farci sentire la vostra voce. Al momento abbiamo qualche problema tecnico, quindi non riesco a vederli gli WhatsApp, quindi quelli scritti non riesco a vederli molto semplicemente, né a leggerli, a darne conto. E quindi mandate le vostre voci. Cosa succede adesso? Una frase mitologica che nella storia repubblicana abbiamo sentito mille volte ed è questa. Con gli alleati faremo di tutto perché questa stagione di riforme vada avanti spedita, così come abbiamo detto nelle ultime settimane. La stagione di riforme. Esprimo con tutto il rispetto per Nicola Zingaretti, che, come dicevamo, esce vincitore sostanzialmente da questa partita elettorale, esprimo il mio scetticismo, perché appunto ora le riforme è una frase che abbiamo sentito un po' troppe volte. Quando le vedremo diremo: oh, sono arrivate le riforme finalmente. Caro Claudio Velardi, come stai? Buongiorno, eccoci. Bene, grazie. Eccoci qua. Eccoci, Claudio. Allora, mi pare che si evidenzi un rafforzamento di Zingaretti e dunque un rafforzamento di Conte, di conseguenza, e un indebolimento di Matteo Salvini e del Movimento 5 Stelle, che maschera un po' tutto con questa vittoria al referendum e che però dal punto di vista elettorale continua a dimostrare una certa inconsistenza, è avvenuto sempre negli ultimi appuntamenti. Che dici? Sì, direi che questo ultimo dato è certo, cioè il referendum hanno voluto un po' tutti che se lo intestasse i 5 Stelle, semplicemente facendo delle valutazioni sbagliatissime. Intendo per tutti, diciamo, tutte le forze politiche, gli intellettuali, gli accademici, i giornali. Questo referendum aveva un esito scontato, il taglio dei parlamentari è una cosa, diciamo, banale, una piccola riforma che non incide in maniera sostanziale sull'assetto, diciamo, del paese. Però tutti quanti hanno voluto fare questo gentile regalo ai 5 Stelle, i quali straperdono le elezioni regionali, oramai sono ridotti come una forza minore, diciamo, sul piano locale, però hanno ricevuto questo prezioso regalo, diciamo così. Ma questo non è, appunto, non è merito loro, colpa degli altri. Io su questo sono piuttosto duro, diciamo così. Tutti quelli che hanno fatto questa campagnona per il no hanno fatto una grandissima stupidata. Tu dici, perché Claudio? Perché? Ma perché questo taglio dei parlamentari è una cosa che tutti quanti hanno sempre proposto, non è la riforma delle riforme, ma non è assolutamente nulla di male, non è una concessione al populismo, è una misura che può far funzionare forse, se si fanno altre riforme, eccetera, un po' meglio il Parlamento. Tutto qua. Le famose altre riforme, Claudio. Le famose altre riforme che poi magari non si faranno. Che è un altro capitolo. Tu che la politica la vivi da più tempo di me, quante volte l'hai sentita questa storia di ora le riforme? Sì. Sempre, è una di quelle parole d'ordine che il giorno dopo, diciamo, tu senti sempre dire, ma poi due giorni dopo, diciamo, tutti quanti dimenticano. E guarda che il punto del due giorni dopo, questo vale la pena, diciamo, tenerlo bene sottolineato, perché oggi non c'è dubbio che la fotografia è quella che fai tu, cioè Zingaretti bene, Salvini acciaccato, Di Maio illuso dal referendum. Domani la storia è un'altra, perché è vero che Zingaretti ha salvato le regioni, ma due di queste regioni sono di De Luca e di Emiliano, dove il PD non c'entra niente o non c'entra quasi niente. Sono due vittorie, diciamo, di leader populisti locali. Mondi politici diversi, comunque distanti per molti versi dal PD. Conte sì che si è rafforzato, e questo pone dei problemi, perché Zingaretti oggi comincia a dire che in qualche modo fa capire che vorrebbe, diciamo, una svolta politica, il MES magari in cuor suo c'ha un rimpasto, ma naturalmente Conte secondo me resisterà e alla grande, cioè andrà avanti per conto suo con le sue metodologie di governo che non sono quelle auspicate da chi vorrebbe invece un'accelerazione. E quindi da domani i problemi di Zingaretti, lo dico insomma anche con una certa simpatia, sono gli stessi di ieri, non è che cambiano. L'unica vera questione di sostanza che agevola un po' il governo, la maggioranza, diciamo, e il PD, è il fatto che Salvini prende una botta ben più pesante di quella che ci dicono poi i numeri, perché è simbolicamente la sconfitta di Salvini nel Veneto, non in Toscana, nel Veneto, è una cosa che porterà delle conseguenze pesantissime. Poi tutti si affannano, Claudio, poi tutti si affannano a dire: ah, ma no, la lista Zaia, dentro la lista Zaia ci sono militanti leghisti, eccetera, però poi in realtà votano Zaia, non la Lega. È un dato clamoroso, è molto più clamoroso di quello che avviene in Campania o in Puglia, dove le liste locali votano appunto De Luca o Emiliano. È molto più significativo, perché la Lega è, o meglio, forse era, l'unico partito rimasto effettivamente tale, cioè un partito con la sua struttura, le sue sezioni, la sua base. Allora il fatto che la base leghista molli Salvini per andare con Zaia è una cosa che avrà delle conseguenze, anche se poi Zaia è un uomo prudente, se ne sta lì tranquillo, però oramai Salvini è pesantemente acciaccato, e allora è arrivato l'errore sul governo, e poi l'Emilia, poi la Toscana, perché anche quella è una sconfitta che comunque a lui va addebitata, quantomeno nella scelta. No, qualcuno imputa e dice: ma perché devi scegliere un personaggio come la Ceccardi, quando in realtà l'operazione che dovresti fare è un'operazione simile a quella, se ti ricordi, e ti ricorderai benissimo, Claudio, forse anche i nostri ascoltatori, del mitico Guazzaloca, un'operazione alla Guazzaloca, cioè tu per prendere Bologna devi portare un candidato sindaco, in questo caso un candidato presidente in Toscana, più moderato, con quel taglio un po' più vicino a quegli elettori. Però diciamo la verità, la Lega ha una buona classe dirigente locale nelle sue zone di insediamento tradizionale, e cioè appunto la Lombardia, il Veneto, dalle altre parti va un po' racimolando del personale politico un po' raccogliticcio, diciamo la verità. Qui è vero che la Ceccardi è stata sindaco di Cascina, mi pare, quello del comune. Però nella quale Cascina, Claudio, scusami, nella quale Cascina, dicevamo, peraltro il centrosinistra ha stravinto. Dicevi, scusami, Claudio, quindi c'è un problema di classe dirigente locale per la Lega che non riesce a risolvere. Se tu pensi al fatto che volevano fare questa invasione al sud, mettendo insieme appunto del personale politico prevalentemente squalificato di risulta, diciamo così, e tutto questo non è riuscito, cioè vengono fuori un po' i limiti culturali della Lega nazionale nella versione, nella versione Salvini, e sono limiti culturali pesanti. Sì. Questa è la cosa. Quindi, sì, da tutto questo si ricava un quadro per cui il governo, nel senso di Conte, si è certamente rafforzato. Il PD si è difeso bene, ma alla fine i problemi ce li avrà, diciamo, da domani. Diciamo, prende una pesante botta a Renzi, e sì, il quale non riesce a sfondare, e Di Maio si è illuso appunto con la caramellina del referendum. In sostanza hanno perso tutti tranne Giorgia Meloni, in pratica. Allora vorrei, dato che lo citava Claudio Velardi, il tema del MES, adesso questo tornerà sicuramente, vi ricordate ne abbiamo parlato lungamente, abbiamo detto spesso, passate alle regionali, probabilmente il Movimento 5 Stelle si muoverà in quella direzione, Conte si muoverà in quella direzione, questo rafforzamento complessivo potrebbe spingere esattamente da quel lato, visto che i soldi del Recovery Fund, poi qualcuno insegnerà al mondo politico a dirlo correttamente, non Recovery Fund, ieri sentivo lo stesso Zingaretti che lo diceva, ma Fund, Recovery Fund, okay, perché è un fondo appunto, comunque si spinge da quel lato, lo fa per esempio il sindaco di Firenze, lo fa lo stesso Zingaretti. Facciamo una cosa, sentiamoli entrambi. Non credo che si tratti di rivendicare poltrone quanto di chiedere ancora più attenzione sui propri temi. Ecco, penso che la questione del MES ora davvero debba essere definitivamente affrontata. Il PD ha tutta la forza per chiedere al governo di fare una scelta precisa, ad esempio. Il Presidente del Consiglio ultimamente ha detto che è un tema su cui si discuterà nel Parlamento. Io confido e chiederemo, per essere chiari, che nel pacchetto della svolta italiana per la rinascita sia compreso anche l'investimento in sanità finanziato con i fondi del MES. Così dunque Zingaretti, per chiarire, all'ascoltatore dice, ma cosa ha vinto Zingaretti se ha perso una regione? Si riferisce naturalmente alle Marche. Dicevamo che ha vinto una partita interna soprattutto, era una partita interna al PD nella quale si diceva in queste ore che c'era qualcuno che voleva fargli le scarpe. Ci ha raggiunto intanto Francesco Specchia di Libero. Ciao Francesco, bentornato. Ciao, buongiorno a tutti. Eccoci, il traffico e poi sono da te, Mattino. Oh, comunque un dato di fatto, in queste regionali gli uscenti hanno vinto tutti e hanno vinto anche in maniera piuttosto pesante. Forse c'è stato anche un elemento che ha a che fare con la gestione dell'emergenza Covid. Forse in Liguria anche l'elemento del ponte di Genova ha contato. Però a livello nazionale, Francesco Specchia, vorrei iniziare coinvolgendoti proprio su questo. A livello nazionale c'è questa Meloni che cresce praticamente dappertutto. Abbiamo appena commentato con Claudio Velardi le difficoltà di Salvini, che sono delle difficoltà interne, delle difficoltà di classe dirigente, delle difficoltà di consenso locale evidentemente, e dall'altra parte una concorrenza interna che lui nega, o meglio dice la competizione interna mi fa bene, che però c'è e oggettivamente si fa più forte, no? Sì, quella di Zaia, intendete? Beh, sicuramente. Certo, beh, certo. Zaia sta studiando ormai da anni, è la terza lezione che segue di Zaia direttamente, da anni, per fare qualcosa di più che lui non osa dire, ma insomma non è un segreto che nel caso in cui ci fossero degli sconvolgimenti all'interno della Lega, in questo momento non è così, ma Zaia si prospetta all'orizzonte come un possibile, come dire, Deus ex machina che possa fare il leader, o addirittura possa proporsi in un futuro fantomatico come addirittura Presidente del Consiglio. Ricordiamo che Zaia è stato un ottimo, penso il migliore ministro dell'agricoltura negli ultimi 25-30 anni, quindi ha avuto un'esperienza anche a livello... Meloni se la gioca, perché è vero che questa elezione è un doppio schiaffo a Salvini, nella misura in cui lui ha effettivamente perso dei voti, ha perso la Toscana, ma nessuno, comunque anche qui c'è un gioco molto di narrazione politica, nessuno pensava veramente che la Toscana, la patria del Soccorso Rosso, l'idea che una regione che si risveglia, il prospettarsi del ritorno dell'antifascismo, del fascismo, potesse anche se non c'era il fascismo, potesse poi in ogni caso votare a centrodestra. Ceccardi ha fatto una campagna elettorale egregia perché ha lasciato da parte poi tutti i temi, anche quelli più spinosi, quelli della sicurezza, i temi etici, e quindi ha lasciato ampia trasversalità di voto ai propri elettori. Però onestamente Salvini ha cannato, ha avuto un bel risultato, ma lì ha sbagliato. Mentre invece la Meloni ha recuperato, per esempio in Puglia si ha già il 10%, che è la stessa percentuale che quella di Salvini. Il nuovo governatore delle Marche rappresenta una piccola rivoluzione copernicana della nuova politica, perché è un giovane, non si è mai visto. Poi si parte sempre dal concetto che bisogna sempre provare i nuovi, perché quelli vecchi li conosci. E che Fitto, lo sapevamo tutti, insomma, che Fitto non sarebbe passato. Lì c'erano due usati sicuri, uno era meno sicuro dell'altro, quindi Emiliano ha vinto. Certo. Stesso, vabbè, Caldoro era una candidatura a perdere, e Caldoro, di fatto gli piace andare lì ogni 4 a 5 anni candidarsi e perdere. È uno sport quello di Caldoro. Il piacere di Caldoro andare. È una stato masochistica, arriva lì e quest'anno voglio perdere quanto. Così. che dici, Claudio? Il piacere, Claudio Velardi, il piacere masochistico di Caldoro. Però non ce l'avrei, no, devo dire, io poi provo una simpatia umana, perché sì, perché molto per benissimo, bene, molto civile, molto sì, per carità, però non è male questo elemento del masochismo. Intendiamoci, poi è vero, ma i politici, guardate, non lo sono mai fino in fondo. Lui in fondo adesso diventa consigliere regionale e prima non lo era. Ah beh, certo, vedi. Diciamo così. C'è sempre un elemento di concretezza anche nelle vicende più paradossali. Senti, Claudio, questa Meloni in ascesa, tra l'altro se ne è parlato molto nelle settimane scorse, anche della capacità di Fratelli d'Italia e della sua leader di guadagnare una serie di connessioni internazionali, utili per esempio oltreoceano, per esempio negli Stati Uniti, utili per poter ascendere a posizioni superiori a quella di leader di un piccolo partito. Va bene, questo è un passaggio obbligato per tutti gli aspiranti, diciamo, leader, però io alla Meloni mi permetterei di dare un consiglio, lei non ne ha bisogno perché è una politica molto esperta. Il problema dell'Italia è che le leadership, quando diventano troppo forti, vengono segate. Questo è matematico. Lei si sta gestendo bene, con prudenza, perché la sua leadership è abbastanza di sostanza, si sostanzia sempre di più con i voti, ma la espone in maniera misurata. Nel momento in cui anche lei dovesse andare un po' sopra le righe, esporsi un po' troppo, a quel punto comincia la caccia grossa alla Meloni. È una legge italiana questa, cioè noi i leader ci illudiamo, li vogliamo creare, ma il momento li vogliamo creare per distruggerli dal momento successivo in cui li abbiamo creati. Questa è una costante, diciamo, della politica italiana. D'altro canto è quello che è successo appunto con Salvini, era successo con Renzi e poi con tutti quelli precedenza. Certo, tranne funzionano i leader non leader, sì. Tipo appunto Zingaretti porta a casa la vittoria perché tutto è stato tranne che un leader, è stato un cucitore discreto. La Meloni cresce costantemente, ma in qualche modo sempre all'ombra di Salvini, almeno fino adesso. Nel momento in cui si esporrà, sarà costretta a esporsi, allora per lei cominceranno i pericoli. Potrebbe essere rischioso. La questione del referendum e delle riforme, cosa vogliamo sentire Di Maio? Sì, dai, via. Gli italiani avevano sempre bocciato ogni proposta negli ultimi 20 anni, ogni proposta che passasse per un referendum costituzionale. Oggi invece siamo di fronte a cittadini italiani che in maggioranza hanno detto sì alla nostra proposta di taglio del numero dei parlamentari. E poi appunto le riforme a partire dalla legge elettorale. Da oggi si apre un percorso di rinnovamento e di rinascita che deve vederci tutti uniti. Lo dobbiamo a chi verrà dopo di noi. Abbiamo il dovere di lasciargli un paese migliore e in questa cornice il prossimo step dovrà necessariamente essere l'approvazione di una nuova legge elettorale proporzionale che sia in grado di favorire la governabilità di un'Italia che ora più che mai ha bisogno di risposte rapide ed efficaci, soprattutto per le nostre imprese, i nostri imprenditori, i nostri artigiani, le nostre partite IVA, che sono il motore del lavoro italiano. Francesco Specchia, assistimi, perché io già lo vedo il dibattito sulla legge elettorale, io divento matto quando inizia il dibattito sulla legge elettorale, e ci sarà, sarà. Il dibattito no, come si diceva una volta. Esatto. No, è verissimo, Di Maio ha approfittato giustamente del successo del sì, cosa peraltro prevedibile, era anche secondo me... voglio dire una forma di coerenza nei confronti della decisione del Parlamento, che quasi all'unanimità aveva deciso per il sì, quindi è stata una prova di forza che gli altri partiti hanno fatto nei confronti dei 5 Stelle, aveva una carica tutta politica questo referendum. Il referendum comunque è passato, aspettiamo tutti una legge elettorale che probabilmente non verrà, perché andremo avanti così incostituzionalmente con un Parlamento tecnicamente illegittimo probabilmente fino alla fine della legislatura. Poi ci sarà questo taglio di 345 eletti, si passa da 315 a 200 in una Camera e da 600 a 400 nell'altra. Sarà una grande vittoria del sì, anche populista, e probabilmente io sono convinto che probabilmente lavoreranno anche meglio, un po' meno, ma questa cosa qui però nasconde, cioè la vittoria del sì, la grande sconfitta dei 5 Stelle, che in realtà si sono trovati con il 60% in meno di votanti, hanno una pattuglia parlamentare che se entrasse adesso in Parlamento sarebbe di un terzo, e sono lacerati completamente fra loro. E lo stesso Di Maio ieri ha osannato il partito, il movimento, così diciamo, per il referendum, ma ha massacrato Crimi, cioè il suo diretto superiore tecnicamente, per il fatto che le regionali siano state organizzate male, non c'è stata l'alleanza col PD, anche se fosse stata avrebbero forse preso le Marche, ma non è che ci sarebbe stata questa grande cosa. Il caso Toti in Liguria dimostra che non avrebbe funzionato assolutamente un'alleanza borracciata. Sì, o quantomeno non con candidati di quel tipo, che evidentemente non hanno funzionato. Ma no, sul territorio non vanno. Allora, noi dobbiamo chiudere, grazie a Francesco Specchia, editorialista di Libero, Claudio Velardi, spin doctor, analista politico e mille altre cose. Grazie ad entrambi per avermi accompagnato e aiutato questa mattina a dare un po' di chiarezza. Noi ci fermiamo, c'è GR24 e poi c'è la rassegna stampa. Alle 7.45 ospiteremo il vice ministro dell'economia, Antonio Misiani. Oggi il Sole 24 Ore, sì, dà conto delle regionali, ma apre sui fondi europei, perché poi la grande partita è quella, ne parliamo anche di questo con Misiani tra poco. Ora è ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite su aruba.it.